Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Signori, io e la giustizia andiamo d'amore e d'accordo. C'è qualche giudice fantasioso che dice che io sono un mafioso, ma la mafia non esiste! La mafia non esiste! Ecco, oh. Com'è che lo fa tra frase la. Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca? L'hai fatto tu, no? Mi hai fatto fare quella figura in merda, mi hai fatto fare. Scusa, giovane. Prego. Ti devo chiedere una cosa. Sì. Un po' mi imbarazza. Non so com'è di. Devo comprare un libro. No, per me, no. È per una ragazza. Mentre noi ci beviamo un bel bicchiere di vino fresco fresco, c'è gente che muore di sete, cazzo io. Mentre noi ci caliamo un maiale sano sano con tutti i pila, c'è gente che muore di fame, cazzo io. Cosa si può fare? Questo è un quacervo, un concentrato di terroni. Conoscete la barzelletta sui terroni, quella più bella, fantastica? Cioè il torinese, il milanese, o l'uomo del nord in generale, trova la lampada di Aladino, esce il genio, dice: hai tre desideri a tua disposizione. Bene, primo desiderio, cosa vuoi? Una grande alluvione che porti via tutta la Terronia, via tutti i terroni spazzati. Bene, zac, esaudito, tutti i terroni affogati. Secondo desiderio, vorrei che riemergessero tutte le terre sommerse da questa alluvione. Vabbè, secondo desiderio. Terzo desiderio, vorrei che dopo un mese rivadano giù nuovamente tutte le terre. Dice: scusa, ma perché hai sprecato dei desideri stupidamente così? E dice l'illuminato uomo del nord. Dice: così, quando riemergono le terre, tutti i terroni che sono emigrati al nord così scendono giù a vedere i parenti, a seppellirli, a fargli i funerali, e così affogano anche quelli. Ecco, questa è l'apoteosi del desiderio di sterminio della Terronia. Ma se oggi esce un libro, mai più Terroni, uno dice: l'avrà scritto qualcuno che ha fatto suo il credo di questa barzelletta. No, invece l'ha scritto Pino Aprile, che si fregia del titolo di meridionalista, che è un titolo un po' antiquato. Pino, buongiorno. Salve. Meridionalista, sì. È roba del secolo scorso, esistono ancora i meridionalisti? Esistono, e per la verità qualcuno tende a distinguere, per salvare l'onore dei meridionalisti antichi, i padri della questione meridionale. Chiamano quelli meridionalisti e i nuovi, per non sporcare quelli, sudisti. Ah, tu sei un sudista? Sarei sudista. Allora, Pino Aprile ha scritto tre libri dedicati alla Terronia. Il primo è Terroni, lo ricordate, ne abbiamo parlato qua. Il secondo libro è Giù al Sud, perché i Terroni salveranno l'Italia. Poi adesso ha chiuso la trilogia, sempre per PM Editore, Mai più Terroni, la fine della questione meridionale. Allora, Pino Aprile ha una teoria che enuncio subito all'inizio della trasmissione, poi andremo via via sviscerandola, cercandone la dimostrazione o appunto la tesi opposta, e prego il pubblico dei Terroni in ascolto 800240024 di corroborare questa mattina la trasmissione con il loro alto contributo. Pino Aprile dice: scompariranno i Terroni non perché si avvererà la profezia della famosa barzelletta del cataclisma e del mago di Aladino, ma semplicemente perché i Terroni stanno già uscendo dalla loro Terronia, intesa come terra fisica, entrando in una sorta di altra regione impalpabile, immateriale, che è la regione della rete. Non vi rendete conto che il progresso dell'umanità, l'innovazione, tutto ciò che è al mondo e più ci fa palpitare come nuovo, come fantastico, è roba che stanno maneggiando i Terroni. È così, Pino? Esattamente così, ovviamente dando al termine Terroni un'accezione universale. Ma tu l'hai sdoganato, ormai nessuno più si offende. La maggior parte delle mie amiche del sud dicono: io sono Terrona, con un grande orgoglio. Una volta, se uno diceva Terrona, ti avrebbero preso a schiaffi. Sì, è un po' quello che mi auguravo accadesse, e ovviamente è accaduto, perché molti sentivano già propria questa cosa. E cioè che quando un termine è caricato di accezioni, di intenzioni offensive, quando viene consumato, come tutte le parole, ripetuto in contesti più diversi, eccetera, perde quei significati, diventa, come dire, trasparente. Si è storicizzato ormai. Esatto, e questo sta accadendo. Ma per esempio, te ne faccio un altro, un termine che è ancora peggio, fra virgolette, di Terroni: briganti. Ora, nelle famiglie meridionali, quasi tutte hanno avuto nella loro storia un parente brigante. Io darei l'anima per avere un parente brigante. Ma se guardi bene magari ce l'hai. Perché? Perché con l'invasione del sud la reazione armata coinvolse decine di migliaia di combattenti, briganti veri, briganti falsi, ex soldati borbonici, eccetera, eccetera. Poi tutto questo divenne vergogna, perché tutto quello che riguarda la sconfitta è vergogna. Adesso viene scrive un ascoltatore: le Terroni hanno le tette grosse. Questo è il primo messaggio che mi è arrivato via SMS. Ma se la notizia viene da un'indagine personale, non possiamo che invidiarlo, perché vuol dire che ha fatto una grande... No, per dirti, esiste tutta una serie di luogo comune anche legato all'aspetto. Noi all'inizio li abbiamo condensati tutti in quell'insieme di pezzettini tra Cettola Qualunque e compagnia. Ma mi dai un attimo una dimensione, non perché voglia farti smarchettamenti gratuiti, ma vorrei far capire il fenomeno Terroni in mano di Pino Aprile. Quanto hanno venduto i tuoi libri? Tanto. Dimmi con il primo Terroni ormai l'ho perso di vista, oltre le 300.000 copie, ma credo che stia viaggiando. E ancora ti chiamano in giro per l'Italia per parlare di Terroni. Quindi in realtà esiste, forse non particolarmente sotto osservazione dell'attenzione dei media più spericolati nel definire la contemporaneità, esiste una seria attenzione, cioè il popolo di Terroni si è mosso e si è, diciamo, coalizzato intorno all'idea. Ma te non ti hanno mai chiesto di far politica, figurati, l'hanno chiesto a Battiato, non lo chiedono a te. Sì, me l'hanno chiesto in tanti. Crocetta non t'ha chiamato. Crocetta no, ma il suo predecessore voleva affidarmi la segreteria, presidenza, non ho capito bene, del suo movimento politico, l'MPA, e parlo di Raffaele Lombardo, la cui analisi politica io condivido. Cioè, io, come dire, politicamente non siamo affini, ma la sua analisi è la più lucida fatta. In pratica lui, lo dico brevemente, cosa dice? Se tu sei un autonomista, non puoi aspirare ad una dignità maggiore di quella che ti dà il tuo territorio. Avete mai visto un ministro della Südtiroler Volkspartei, un sottosegretario dell'Unione Valdotene? Più sei legato al territorio, più ti restringi. Perché se no usi il consenso che raccogli nel territorio per fare carriera al centro. Ma il tuo libro contraddice questo. I Terroni ormai è una condizione dell'esistenza spalmata in tutte le realtà geografiche. Ma come mai i Terroni non sono a questo punto mai coalizzati in un movimento politico serio? Oggi nelle varie primarie che ci sono, come mai non c'è qualcuno che rappresenta il sud? Per esempio, il tentativo di coinvolgermi, io lo capisco, per carità, ne sono anche lusingato, perché è comunque una forma di riconoscimento, di rispetto, di attenzione, quindi grazie comunque. Ma 24 movimenti e partiti meridionali, meridionalisti, o come direbbero quelli che lo vorrebbero dare un termine di specie, sudisti, e bada, una piccola parentesi la vorrei fare. Pensa come è falsato il concetto che per offendere sudista viene usato in maniera offensiva e viene usato da meridionali per altri meridionali. Per offendere un meridionale dai alla parola sudista una connotazione negativa e contiene la radice sud di quello che sei. Cioè è come se offendessi, come dire, una madre comune. Sai, come i messicani insultavano gli immigrati messicani che erano passato il confine, erano andati in California, erano i Pachucos, erano quelli che hanno già fatto patti col nemico, che erano a loro volta presi in giro dagli stessi americani, li prendevano in giro per come vestivano, per come si atteggiavano, erano i meridionali dei californiani, capito? E allo stesso modo avevano il pregiudizio di quelli che erano rimasti a casa. E questa non la sapevo, ma davvero fotografa, perché il pregiudizio, chiamiamolo il male, è come ha una forza di gravità, si scarica sempre sulle spalle del più debole. Per cui se tu sei quello che non lo è più, come il nuovo che è arrivato, scarichi su di lui. Però Pino ci dice in questo momento che qualcosa sta cambiando. Però sentiamo prima Osvaldo, prima di andare al nucleo del libro di perché non ci saranno mai più Terroni. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio. Innanzitutto ringrazio la trasmissione, perché ha dato spazio a Pino Aprile, che l'ho conosciuto e l'ho ascoltato. Lei Terrone, naturalmente. Sì, sì. Di dove? Ascoltato a Napoli. Ah, no. E, diciamo che questo personaggio dovrebbe avere più spazio, perché la storia del Meridione, del Regno delle Due Sicilie, non viene riportata a livello nazionale quando ci sono gli sfottò. Sì, però lei sta ritornando indietro al primo libro di Aprile. Faccia un passo avanti, sì, sennò i Frateroni saranno spazzati via dalla loro terronaggine inveterata. Il passo avanti è l'ultimo sfottò della consigliere Donatella Galli della Lega Nord, che su Facebook ha continuato a dire l'Italia va divisa in due, forza Etna, forza Vesuvio. Vabbè, qui stiamo parlando di politici. Come le barzellette di Pierino, cioè io ho aperto. Ma le barzellette dette dai politici è un po' diverso. Vabbè, ma anche i politici fanno parte del grande mondo delle barzellette in queste ultime generazioni, quindi la prenda con filosofia. Viva i Terroni, ma basta pagare le tasse per mantenere le loro ruberie. Viola. I Terroni vanno al nord e poi dicono come si stava bene al sud, ma non ci ritornano. Poi via dicendo. Sentiamo Antonio Volpentesta. Buongiorno, così allarghiamo il dibattito. Buongiorno a tutti. Antonio Volpentesta è un professore, docente di ingegneria gestionale all'Università della Calabria. Allora, l'ho appena accennato, il libro di Pino Aprile dice porta una tesi avanti molto avanzata e poco calcata. Dice che in realtà nel mondo dell'innovazione, in particolare dell'ICT, ma del web, esiste una nuova generazione, Terrone 2.0, trasversale, non soltanto legato al nostro meridione, al meridione dell'universo, del mondo, che sono in realtà i veri detentori dell'innovazione. Sei d'accordo, professore? Ora, fatta così la domanda, una risposta sì o no è difficile. Terroni, forse se risaliamo all'etimologia del termine e diamo un significato letterario, mi sembra, e forse l'autore del libro me lo può confermare, che deriva dal fatto che i primi emigranti portavano con sé un pezzetto di terra, si dicesse, insomma, per annusarla, per rimanere legati o ricordare il sapore, l'odore della loro terra d'origine. Penso oggi tutto si sniffa meno che la terra, guarda. Sì. Ora il passaggio dal fisico al virtuale, dal fisico al digitale, ovviamente ha spazzato via anche qualsiasi significato letterario di questo termine, terrone. Da un punto di vista economico, se stringiamo un po' il campo e lasciamo stare gli aspetti sociali e culturali, c'è qualcuno che dice che i terroni, i sudisti esistono in qualunque e continueranno ad esistere in qualunque paese capitalista, perché in qualche modo deriva dal divario che c'è tra ricchezza e povertà, e la povertà tende ad essere concentrata in particolare zone geografiche. Il fatto che internet in qualche modo abbia risolto problemi di distanza, avendo possibilità di lavorare indipendentemente dal luogo dove si è situato, sembrerebbe un po' contraddire questa affermazione. Però aspetta un attimo, professore, mi faccio spiegare bene al Pino Aprile. Tu a cosa alludi? Quando tu fai degli esempi concreti, sì, quando dici che ormai il Terrone 2.0 è l'uomo dell'innovazione, ha abbandonato la sua terronaggine in senso deletero, ma ha preso quello che è il valore maggiore di essere un uomo del sud, quindi legato a quella terra, quindi legato a della concretezza, e lo ha elaborato e spalmato nell'innovazione. Fammi degli esempi concreti. Sì, perché per essere terrone tu devi essere vittima di una condizione di isolamento e di minorità, proprio nelle infrastrutture, anche nelle capacità di trasporto, eccetera, eccetera. E di avere capacità però di reagire. Sì, a quella minorità tu puoi reagire in due modi, o isolandoti o andandotene. Con il web questo non è più vero, perché nella rete conta soltanto click ci sono, click ne sono uscito. Quindi all'improvviso, con un click, chiunque nel mondo è alla pari con tutti. La condizione di minorità scompare. Non c'è geografia nel web. Le dimensioni sono zero e il tempo è zero. È impossibile essere meridionali, settentrionali di qualcuno. Ma fammi degli esempi di meridionali che secondo te si stanno muovendo. Parliamo di macro scenari. Non... Allora, lo scenario non è ancora macro al punto da poter essere rilevato da enti che preposti a questo come l'Istat, lo Svimez, però lo sta diventando. Esempio, Se tu avevi idea di programmare la campagna promozionale del CD di una rock star, di una pop star americana, e vivevi in un paesino dell'Irpinia, dovevi prendere un treno, poi un aereo, poi andare a Los Angeles, parlare con, eccetera, eccetera. Adesso succede che un ragazzo di 21 anni, che si chiama Patrick Carminio, che vive a Bisaccia, paese terremotato dell'Irpinia, che ci ha dato anche Franco Arminio, grande scrittore e poeta, e con i suoi colleghi di una società di grafica e pubblicità che hanno creato loro, da Bisaccia programma, e lo ha fatto, la campagna promozionale di una pop star americana. Non ha bisogno di andarci, perché con il web tu sei ovunque, con chiunque, all'istante. Poi fammi capire, Pino, scompare il pregiudizio dell'essere terrone, o il terrone, e qui ti colgo attento, o il terrone secondo te ha delle chance in più, ha delle qualità che non ha potuto esprimere nella geografia concreta e le esprime nella geografia in concreta del web? Le chance che ha in più sono enormi. Perché? Perché per la prima volta da tanto tempo è nella stessa condizione dei suoi concorrenti. Questo ha portato, allarghiamo un po' il campo, i terroni, non solo gli italiani, del mondo, ha un recupero furioso, velocissimo, di paesi che erano sud, la Cina, l'India, il Brasile. Il Ghana è oggi il paese al mondo con il più alto indice di sviluppo economico annuo, 13,5%, una follia. Questo, cioè il sud è, grazie alla rete, nella condizione di poter competere alla pari. Questo significa, per esempio, che io ho preso una parte per il tutto, un pezzo di costa pugliese che va, diciamo, da Bari a Lecce, significa che a Monopoli ci sono due ragazzi non ancora trentenni che si incontrano a Parigi, studiano come tornare a casa e si inventano il più veloce e leggero aereo di trasporto privato del mondo. In meno di 2 anni hanno fatto una fabbrica che sta vendendo in tutto il mondo e che sta già in fase di ampliamento, senza avere un euro, soltanto in forza delle proprie idee. E del Job Rapido è ideato da un ragazzo di Conversano, che confina con Monopoli, che cercando un lavoro in Italia, dopo essersi laureato a Berlino, aver lavorato a Londra, si chiede, mentre lo fa, quanti nel mondo stanno facendo questo, e studia un progetto per mettere in contatto chi cerca e chi offre. Allora, 800 24 00 24, abbiamo esposto quello che è il tema di questa mattina dando alcuni esempi. A me piacerebbe, poi continueremo a parlare col professor Volpentesta, che è metà filosofo e metà informatico, sta all'Università della Calabria, ma soprattutto con voi ascoltatori è la grande occasione per contraddire un'infinità di luoghi comuni. Avete esempi, avete delle vostre storie personali di terroni che hanno abbandonato la zona di emarginazione terronica per uscire nel grande mondo in cui c'è nel nord e nel sud, quello della rete, e hanno ritrovato la possibilità di impugnare e di mostrare il loro valore? 800 24 00 24, mai più terroni, dice Pino Aprile, Edizioni PM, nel suo ultimo libro, annunciando come profezia la fine della questione meridionale, perché non ci sarà nord e sud nel grande mondo della rete in cui i terroni si stanno muovendo in maniera decisa. Marco, che ne pensa? Buongiorno. Ah, buongiorno. Intanto credo che non sia vero. Io sono un ex terrone. E come ha fatto a sterronarsi? A sterronarsi nel senso di prendere atto che c'è geneticamente un comportamento del terrone che è legato al clima del sole, al tempo del sole e a dei tempi più lunghi. Una giornata per il... Si è anche tolto l'inflessione, come faceva Batantuono, eccezionale veramente. Ah. Parla... No, io parlo di un aspetto di forma di dinamicità, no? un modo di essere opulenti. E... Ma lei dove è nato, Carlo? Dove è nato io lei? Sono nato a Napoli. Ma quanto ha vissuto a Napoli? Fino alla maturità, poi dopo per motivi di lavoro sono andato via, lavoro nel mondo della ristorazione, faccio il cuoco e vado in giro, ho girato un po' tutta Italia, un po'. Ma completamente ucciso ogni inflessione napoletana, è stata un... No, ci sta, quando va scivo. Anch'io. Ci sta, immagino. Allora, cosa vuol dire? Da terrone pentito, lei? No, io non sono pentito, io apprezzo lo spirito, diciamo così, della più creativa della napoletanità in questo caso. Però ancora oggi mi confronto con colleghi, con persone che vengono dal sud, che hanno una giornata che dura 28 ore, non 24, tutto si può fare dopo, e poi c'è poi una forma di non dinamismo, ma una forma di staticità. Vabbè, no? questo è innegabile, è vero, sì. Ho amiche terrone che quando vengono a Roma disfano la valigia dopo una settimana e sono arrivate, perché c'ho tanta fame. Ma che vuol dire? E sono particolari. Ma a me è una cosa urta che urta, perché lì diventano un po' in effetti, tra virgolette, mi lasciano senza termine, poco produttivi in un contesto di vita quotidiana. Vabbè, questo è molto chiaro. Rimane comunque un aspetto che non possiamo negare, legato alla, controra perenne dell'animo mediterraneo, che lei ha a tal punto ripudiato che ha ucciso in lei ogni inflessione terronica. Ilaria, buongiorno. Ilaria. Ilaria, in mezzo a una tempesta. Ecco, no, non la ora la sento bene. Lei è terrona, sì. Sono terrona, nata a Salerno, vissuta a Napoli fino a 27 anni praticamente, e da circa un anno e mezzo mi sono trasferita a Trento. E quindi ho chiamato perché in realtà volevo confutare quella che è la tesi del libro, vale a dire, io... Pugnalato marito... alle spalle fino a aprile da due terroni, è una novità questa. E io e mio marito lavoriamo entrambi, diciamo, nel campo del web, di internet. È terrone anche lui oppure lui l'ha preso su Trento? No, terrone anche lui, entrambi terroni trasferiti. E quindi comunque internet per noi è stato il modo per costruirci, diciamo, una reputazione professionale qui, anche perché questo è un territorio che dà tante opportunità, però è anche molto chiuso. Ma lei sta dando ragione a Pino, scusate. Sì, esatto, sì, mi sono espressa male all'inizio. Ha perfettamente ragione, lei è un esempio, diciamo, il terrone 2.0. Esatto, e quindi, insomma, noi in realtà, ecco, io vedo tutti i giorni che qui, utilizzando semplicemente internet, social network, costruendomi una rete di relazioni, poi virtuali, ma che in realtà poi sono sul territorio, e in qualche modo sto riuscendo comunque ad affermarmi, a farmi conoscere, e all'inizio ovviamente c'è stato un po' di, come dire, non pregiudizio, però ecco, chiamiamola così, accortezza nei nostri confronti. Vabbè, avete abbassato la soglia del pregiudizio e avete impugnato la terronaggine come categoria vincente in rete. Carlo, è la stessa idea? No. Io ho paura invece che si possa diventare addirittura ancora più terroni, cioè terroni anche su internet. Terroni si è per gap culturale, ci si sente o ci si trova a essere, altri lo enunciano, noi siamo terroni rispetto a chi ci definisce tale. E lo sarete sempre, Carlo, secondo lei? Mi scusi? Lo sarete sempre, è una categoria inalienabile. Per esempio, io non lo sono nato a Roma da genitori siciliani, ma non mi sento terrone, perché terrone ha in sé una nota di inferiorità in cui ci devi trovare. Che però abbiamo in parte detto che è stata sdoganata, superata, si è fatto un doppio salto mortale, c'è l'orgoglio di definirsi terroni, è un gioco divertente, non c'è più l'onta, almeno che venga da un sottosviluppato culturalmente, che ancora usa questo termine in maniera spregiativa, o anche quando si usa per definire alcune caratteristiche negative, innegabili comunque, in certe realtà del sud, non ha più questo carattere terrificante e emarginatore che aveva una volta. Pino Aprile, rispetto a queste telefonate. Ma io vorrei rispondere con alcuni esempi, magari uscendo anche dal nostro angusto, importante per noi, ci viviamo, ambito geografico. Bangalore. Bangalore, raccontata benissimo in quello stupendo libro di Federico Rampini, che è L'impero di Cindia, è la capitale mondiale di questi fenomeni. Cioè, gli studenti, l'università di Bangalore è la più ambita in questo campo. Gli scarti di Bangalore, cioè gli studenti che non vengono ritenuti adatti, sufficientemente bravi per poter essere accolti a Bangalore, vengono contesi a colpi di borse di studio pesantissime da università come Harvard, cioè le migliori del mondo. Bene, immaginiamo come possa essere stato considerato terrone uno studente di Bangalore che va a Harvard. Appunto, almeno negli anni passati, quando ancora, diciamo, il web non era considerato un'eccellenza importante e produttiva. Infatti non solo, ma nella stessa Bangalore, ora l'India è una società castale ultrasecolare, ci sono i bramini e gli ultimi della casta che sono i paria, gli intoccabili. A Bangalore sta avvenendo che per via del web, per l'incontro sul web sugli stessi programmi, stanno cadendo le barriere fra gli intoccabili e i bramini. cioè è una cosa, cioè stanno cadendo, come dire, i fondamenti della società stratificata indiana. Quindi questo, diciamo, è una autoavverarsi di questa profezia, laddove il terrone si sta uscendo dalla sua condizione emarginata attraverso il web o diciamo la tecnologia legata alle, appunto al mondo dell'impalpabile, della interconnessione. Cadono anche dei sistemi così rigidi come quelli delle caste, che sono territoriali, per questo sembravano impossibili a... Esatto, che sono territoriali. Il web, non essendo territoriale, mette tutti allo stesso livello. È quello che spiegava con una diciamo la conclusione del suo grandissimo libro, Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, che però ha insegnato per una vita negli Stati Uniti, anche se indiano, e che dice: un uomo è quel che le circostanze gli consentono di essere. Le circostanze del web sono uguali per tutti, quelle territoriali no. Antonio Volpentesta, ricordo, docente di ingegneria gestionale all'Università della Calabria. Rispetto a quello che sta detto fino adesso, hai un'integrazione da fare, visto che tu ti trovi esattamente in un luogo simile, una sorta di Silicon Valley della Calabria, e questo non è che lo dico io, questo è innegabile, oggettivo, non ho nessuna ragione per dire cose che non siano corrispondenti alla realtà. Sì, dunque, ritornando su quello che si stava dicendo prima, senza dubbio ci sono le opportunità per uno sviluppo economico, se vogliamo chiamarlo un terrone 2.0, però bisogna distinguere quelle che sono le opportunità e quello che è la realtà. Si stava facendo riferimento prima, uno, a dei casi singoli e due, al distretto tecnologico di Bangalore. E c'è una bella differenza, diciamo. Fin quando ci si sofferma soltanto su casi isolati, non ci può essere sviluppo economico. Fin quando ci sono iniziative individuali che non fanno rete, che non creano massa e non si raggiunge una certa massa critica, non ci può essere uno sviluppo economico adeguato. Io faccio presente che le iniziative individuali, io ne ho un certo numero che potrei anche far pervenire a Pino Aprile, di iniziative individuali che hanno avuto pure successo qui nel Meridione, però non hanno il conforto infrastrutturale. Tanto per intenderci, per parlare fuori dai denti, qua ci sono zone che non sono ancora servite da internet. Qua la Calabria, la banda larga o le fibre ottiche non sono mai arrivate. Potrei dire internet si è fermata debole, insomma, parafrasando il famoso titolo. Quindi l'iniziativa, per quanto diciamo siamo messi in pari condizioni, sono d'accordo da un punto di vista di capitale intellettuale, però ci sono anche iniziative infrastrutturali che necessitano, per quanto riguarda lo sviluppo economico. Sì, perché in realtà non ci vogliono grandi risorse, ma almeno la rete serve. I miei studenti, io insegno i business reti di imprese, il 90% dei miei studenti vanno a lavorare fuori, cioè questo è capitale intellettuale che viene esportato e che non può far ricadere il valore sul territorio, proprio perché non trovano le condizioni, cioè le iniziative singole non possono essere considerate, seppur sommate, a livello macro, a livello economico. C'è bisogno ancora di uno sviluppo che possa in qualche modo esplodere e far avverare quello che poi è quello che dice nel libro. È interessante, appena aprire, ho voluto chiamare delle persone che conosco, che si muovono in questa realtà, fra poco ne sentiremo un altro dopo la pausa del traffico, proprio per dare un'idea da chi realmente vive questa realtà e fa questo sforzo. Però vedi, l'impatto infrastrutturale è innegabile. E te lo dice un professore, dice: sì, io posso avere persone validissime, ma se poi non c'è la rete nelle nostre città, che facciamo? È assolutamente vero quello che dice il professore, e infatti io nel mio libro racconto di fatti come dire individuali di grande successo e anche di zone dove questo è diventato rete. Per esempio ma attorno all'università di Bari, il Politecnico di Bari già da 2 anni è nella classifica mondiale dei politecnici il migliore d'Italia, non sa nessuno, e attorno con le spin-off, cioè le idee partorite, ecco, stanno nascendo start-up, cioè aziende nuove attorno a Bari, che stanno attirando capitali da tutto il mondo. L'Università di Lecce in questo momento sta spendendo decine di milioni di euro per ampliare ancora di più la rete dei suoi laboratori, in cui investono multinazionali di tutto il mondo. E che stanno partorendo, per esempio, grazie ad alcuni ricercatori che il Massachusetts Institute of Technology ha ritenuto i migliori che ci siano, una delle 15 più potenti economie dei prossimi anni nel pianeta. Perché lì è diventato già, ha ragione il professore, è diventato già rete. Altrove ha ragione anche qui, no. Ma questi fenomeni non sono ancora a dimensione tale da poter essere rilevati da grandi istituti. Ma per questo, Pino, è importante che a questo punto i tanti movimenti meridionalisti, o come vengono chiamati sudisti, forse dovrebbero fare rete fra di loro. È inutile che si presentino, esatto, come una grande diaspora e ognuno porta avanti il suo campanile. Se questa realtà, quello che dici te, è una profezia che ha radici concrete di avverarsi, occorre che si muova anche sul terreno della conquista delle istituzioni. Non c'è soltanto lo stanno facendo, ci stanno provando. Per esempio adesso il 24 di novembre c'è il seguito di una roba che avvenne l'8 settembre, e cioè quando si riunirono questi 24 movimenti di adesso sono diventati 28 meridionali, che si vogliono mettere assieme per un progetto comune. Allora il progetto comune era offrirmi la leadership, che io ho ringraziato e rifiutato, e loro vanno avanti, giustamente, fanno bene per chi la si loro prendono strada. Al posto tuo? Ah, ma sicuramente qualcuno migliore di me, sicuramente qualcuno. Chi potrebbe essere? No. Cioè, verrà fuori, deve venire fuori dal conflitto positivo, ovviamente, il confronto fra i vari leader, e questa è la democrazia. Ho detto che stamattina avrei chiamato alcuni amici terroni, ma amici che non stanno lì a guardare il mondo che scorre, ma a loro modo sono dati da fare. Uno di questi è Beppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Beppe Neri è un neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Hai seguito in silenzio, con attenzione, quello che abbiamo detto finora. Tu ti muovi in un campo molto particolare, che è quello della sanità, su cui il pregiudizio della terronaggine è tra i più duri a cadere. Vedi anche te questa possibilità, non dico di emancipazione, che è un brutto termine, si emancipa chi era schiavo, in fondo il terrone non è che sia stato mai schiavo, ha avuto delle circostanze storiche che l'hanno messo in condizioni di difficoltà. Ecco, la vedi anche nel tuo settore, nel tuo terreno? E poi da neuropsichiatra, se mi permetti, esiste una atavica genetica inscindibile propensione all'aspetto più statico dell'etereo dell'essere terrone? Allora, innanzitutto rivendico la mia caratura di terrone, perché, come dicevate voi prima, io ho un trisavolo brigante vero, che fra il 1880 e il 1890 lo zio Pasquale Neri, nella zona sud di Reggio Calabria, l'ha conosciuto come Uspandenti, perché spandeva il terrore. Quindi penso di avere i 4/4. Non me l'avevi mai detto. E questo è uno dei segreti che emergono poi. Ne sarei stato fiero, l'avrei detto a tutto il mondo. Allora, prima cosa. Seconda cosa. Io penso che il professore di Arcavacata dell'Università di Cosenza ha detto delle cose fondamentali. Pino Aprile, che mi piace ascoltare dopo aver letto i suoi libri, parla di una realtà che è già diversa. Ricordiamoci che è un'Italia molto complessa la nostra. L'area della Puglia è molto diversa dalla nostra Calabria. Io l'ho lasciata 40 anni fa la Calabria, e per fare un esempio molto pratico, che però fa parte della storia delle persone, quelli cui andava bene il sonnolento capoluogo di provincia del profondo sud negli anni 70, Reggio Calabria, sono rimasti lì. Tutti quelli che avevamo da ridire, non ci andava bene, facevamo casino, c'erano le assemblee, te li ritrovi a Londra, a Milano, a Stanford, a Lilla, a Bruxelles, perché sono andati altrove a cercare qualcosa che probabilmente la rete dei sistemi di potere non poteva dare. E quelli che rimangono invece? Prego? Quelli che rimangono? Quelli che rimangono fanno brillantemente la professione di avvocato, oppure hanno trovato un inserimento nel tessuto di quel pubblico impiego che ha dato da vivere per tanto tempo a parte del sud, e che adesso per motivi evidenti si sta prosciugando. Ma quello che volevo dire è che il problema è che, con buona pace delle speranze di alcuni, secondo me è durissimo cercare di fare ancora oggi dopo 40 anni certe cose in quel contesto socioculturale. Gli unici che hanno il coraggio, secondo me, di dire delle cose vere non sono i politici giù in Calabria, per esempio, ma sono dei preti. e guarda caso gli fanno saltare le loro imprese come quelli della cooperativa Libera Gioia Tauro, gli sparano contro i centri di accoglienza come a quel bresciano Don Giacomo Panizza che a Lamezia cercava di fare delle cose, e questo dà un'idea di questa situazione. Poi cioè riscattano i preti di tutto il resto del mondo. Cosa dici? Riscattano i preti di tutto il resto del mondo. È vero, però c'è una storia, c'è un mio amico, eravamo amici da ragazzi, adesso ha fatto carriera, è diventato vescovo a Cosenza, che diceva una cosa molto giusta, si chiama Salvatore Nonnari, diceva: se la politica è debole, la mafia diventa forte e la latitanza dei poteri pubblici rende forti gli arbitri e l'abusivismo. Questo è 2012, non è tanti anni fa. E allora il problema resta nel fatto che mi va benissimo se avessimo, e non c'è, come diceva Volpi in testa, la banda larga giù in Calabria, ma il problema fondamentale è che per me la speranza è legata alla capacità di disseminarsi e di portare un po' di germoglio in giro. C'è un calabrese di seconda generazione che è nato a Gerace, in provincia di Reggio Calabria, che si chiama Leon Panetta, che però poi è cresciuto a Monterey in California, che ha fatto molta carriera, perché adesso è direttore della CIA, per dirne uno, che usa molto i sistemi informatici, credo, ma al di là chissà di questo, anche lui aveva uno zio brigante. No, probabilmente lui, essendo della costa ionica, aveva un certo patrimonio genetico che era orientato per l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni. Lì, poco più a nord, molti secoli, millenni prima, c'era un tale Pitagora che si dava da fare a far conti. Il problema è un altro, il problema è che la tristezza di quelli che credono nella possibilità di migliorare le cose è che, dal mio punto d'osservazione, 40 anni dopo, la rete dei vincoli, dei lacci, delle limitazioni, la mancanza del senso di appartenenza a un consorzio civile e condiviso rimane una delle palle al piede pesantissime. Beppe Neri, grazie. Allora, Pino Aprile, abbiamo due minuti per concludere. Ti ho portato due esempi di amici miei, Terroni, e penso ti abbiano o confortato o dato motivi di riflessione. Tu fai un grande esempio nel tuo libro, che poi è un elemento caro a tutti i Terroni, l'ulivo. Dice, volete essere come l'ulivo, che muore, marcisce, ma nelle radici viene sempre fuori qualcos'altro. Questo per confortare del fatto non è che si perde le proprie caratteristiche a cui si tiene tanto, sparpagliandosi in questo mondo senza nord e senza sud. No, faccio l'esempio dell'ulivo, ne posso fare anche un altro, che è quello della pizza, per dire che quello che sei non si perde ma si arricchisce del nuovo, niente di quello che fa la pizza è napoletano. La base è venuta dalla Mesopotamia e ci ha messo 4.000 anni dal 10.000 avanti Cristo per arrivare a Napoli. L'olio gliel'hanno portato i greci ed è dovuto cadere la cultura greca per dare l'olio alla pizza. La mozzarella di bufala ci è costato l'impero romano per consentire l'arrivo dei goti e quindi delle bufale per dare la mozzarella, e ci si è dovuti poi riprendere per un migliaio di anni prima di riuscire a mandare qualcuno a comprare i pomodori in America. Quindi niente napoletano della pizza, sale, ma niente sì, più napoletano della pizza. Persino quando la fanno i cinesi è pizza napoletana. Questo cosa vuol dire? Che quello che siamo rimane, quello che dicevano i due interlocutori, è vero, però bisogna guardare non a quello che già c'è, ma a quello che nasce per capire che cosa sarà. Uno dei punti di eccellenza, per esempio, di questa Calabria, che con condizioni pesantissime, è proprio Arcavacata, è proprio l'università del professor Volpi in testa, dove per esempio c'è il professor Vito Teti, grande etnografo, che sta studiando questi calabresi che tornano o non partono come una nuova tribù della Restanza. Grazie Pino Aprile, grazie a tutti i Terroni che ci hanno seguito, ci hanno ascoltato, ma anche agli altri. A domani.